Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Convocati di Carlo Genta. In questi giorni di vacanza stiamo ripercorrendo il meglio della stagione di Tutti Convocati che ci ha accompagnato e adesso vi propongo qualcosa di cui sono particolarmente fiero e orgoglioso insieme a Giorgio De Luca, mio autore, insieme a Gianmarco Ferronato che ci ha seguito per tutta la stagione in regia ed è qui anche oggi. Allora, non sono particolarmente nostalgico, io preferisco guardare al presente e magari al futuro, però ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria che sono indimenticabili. Per chi le ha vissute magari da bambino, magari da ragazzino, magari dal vivo, magari in TV e perfino attraverso i DVD o internet. Vi ricordate il Milan di Gullit? Vi ricordate il Napoli di Maradona? Per me non sono squadre, sono simboli, sono leggende, sono icone. E quindi un giorno che per me sarà difficile dimenticare, anche se sono molti anni che faccio questo mestiere, è entrato in questo studio Ruud Gullit che è stato un grande giocatore, è stato un sex symbol, è stato qualcosa di particolare e di irripetibile per una generazione. Ora è sempre in grandi condizioni fisiche, poi non ha più i riccioli rasta ma porta i capelli ben rasati e ha un carisma come poche altre persone possiamo trovare nel mondo dello sport. È stato con noi per presentare un libro, è stato con noi per parlare di calcio, sport e filosofia, è rimasto con noi anche dopo off records e vi assicuro che è una persona che vale la pena conoscere. Non guardare la palla, questo è il titolo del suo libro, che vi consiglio tra l'altro come lettura per l'estate. Ruud Gullit, Maradona, stessi anni, stessa storia, storie che si incrociano. Nessuno può dimenticare il primo scudetto del Milan di Sacchi, quello vinto a Napoli con quella meravigliosa partita con Maradona e il suo incipit: non voglio vedere domenica a San Paolo nemmeno una bandiera rossonera. Qualche bandiera rossonera c'era, ma soprattutto c'erano il Milan, Gullit, Van Basten, e il Milan vinse lo scudetto. Maradona, Gullit, Maradona. Oggi parliamo di questo. Quando sono venuto in Italia non era ancora qualcuno, no? Calcisticamente avevo vinto poco e grazie all'Italia, anche al livello calcistico in Italia, sono cresciuto abbastanza. Di allora, Ruud Gullit, che giocava anche da libero, in origine era stato una mezzala, poi una punta, poi a seconda dell'esigenza giocava da libero, però il suo posto migliore era partire dietro la prima punta o la seconda punta di inserirsi grazie alla sua grande forza, alla sua grande velocità, alla sua potenza di tiro. Poi non dimentichiamo che quando arrivava in area era di testa formidabile. La mia filosofia è anche di sempre credere nel positivo e non sempre nel negativo, di non pensare soltanto al calcio, ma anche pensare ad altra cosa, e sicuramente di avere intorno di te gente positiva, perché ci sono tante persone che ti vogliono soltanto male, non te lo dicono, ma si vede nella faccia, si vede negli occhi, e devi cacciarla via, devi avere gente positiva e naturalmente anche la famiglia è molto importante. A

sostenuto che si vuole fortemente rinsaldare ufficialmente il legame di profondo affetto ed amicizia tra Napoli e Diego Armando Maradona. A tal proposito, quindi, il sindaco, interpretando tali sentimenti, esprimendo la volontà dei cittadini tutti e rendendo doveroso e sentito omaggio all'amore reciproco, la nostra città ed il Bipede Oro, intende conferirgli la cittadinanza onoraria. Grazie. Sono commosso perché Napoli dopo 33 anni mi fa cittadino. Però io, come ho detto prima, io sempre della mia casa all'allenamento, alla partita, sempre mi sono sentito napoletano. Questo è vero. Il Pipe d'Oro non ha raccontato una bugia in questo caso. Allora, cronaca di una festa non riuscita. In realtà, non mi ho ancora ricordato i nostri contatti. 800240024 per la vostra voce. Potete vederci anche sulla webcam, sulla pagina Facebook di Tutti Convocati. Però, Massimo Golini, inviato di Sky, ciao! Ciao a tutti! Allora, mi racconti la cronaca di una giornata che non è andata proprio benissimo a Napoli, perché ieri sera in piazza non c'era la folla che era attesa. No, che vuol dire non è andato benissimo? Dipende dai punti di vista, cioè, nel senso, secondo me, cioè, quando un personaggio come Maradona viene riconosciuto la cittadinanza onoraria per quello che ha fatto, per quello che ha dato, insomma, è un momento, no, è un momento significativo, importante. No, poi appunto, da un punto di vista logistico, organizzativo, Massimo, sto parlando. Organizzativo. Allora, c'è l'aspetto dell'ordine pubblico che certamente è andato bene, questo era l'aspetto principalmente più importante considerando quello che è successo purtroppo a Torino. C'è un aspetto invece evidentemente politico che non ha funzionato, nel senso che tante sono state nei giorni che ho preceduto la cerimonia le polemiche su questa decisione del sindaco, cioè chi riteneva che non fosse giusto dare la cittadinanza a Diego Armando Maradona, a chi invece sosteneva che fosse giusto ma che non dovesse esserci questa spettacolarizzazione che poi c'è stata, no? con tanti sponsor, con un giro di soldi inevitabile per organizzare una manifestazione di questa portata, e poi c'è l'aspetto secondo me anche sociologico del fatto di una piazza piena solo per metà, ecco. No, ma il discorso è che allora, Massimo, tanti tasti da aspetti secondo me da analizzare, questo certamente. Sono d'accordo con te. Allora, cittadinanza, polemiche sulla cittadinanza onoraria Maradona sono tralasciabili, trascurabili, perché come ha detto Maradona io sono cittadino di questo posto dal momento in cui sono arrivato, e questo è vero, potete leggerlo, sentirlo in un sacco di posti. Non vedo perché non dare la cittadinanza onoraria a un artista che è stato a Napoli, e ieri sera si celebravano anche altri artisti. Però il problema è stato che la cittadinanza onoraria no, gliela diamo in comune e poi facciamo il replay in piazza. E poi è circolata la voce, la festa fosse saltata. Insomma, ci sono stati tanti aspetti organizzativi che ieri hanno scricchiolato, è inutile nasconderlo, no? Certamente, mi sembra evidente che da un punto di vista politico a un certo punto il sindaco abbia ritenuto, non dico conveniente, ma più opportuno, anche forse per dare una veste maggiormente istituzionale al conferimento dell'onorificenza, darla a Palazzo San Giacomo, che è la sede del comune. È ovvio che insomma, il giorno prima l'assessore Ciro Borriello, che è un bravissimo assessore, una brava persona, che si spende molto, stava al tavolo accanto a Diego Armando Maradona. Sto provando a trattenermi, no, ma fammi capire, perché devi darci ragazzi, allora, a Maradona, che è l'uomo, è il simbolo di quella gente, perché cazzo di dargli l'incomune? Ma fammi capire, ma secondo me è una sciocchezza colossale. Ma a Pesaro è stata conferita, insomma, è stata conferita in privato tranquillamente, seriamente. Cioè, nel momento in cui l'idea che mi sono fatto io vivendo questi giorni, nel momento in cui decidi di organizzare una cosa del genere, che secondo me ci sta ed è una bella cosa, ma che bellissima, poi ipocrita pensare che una cosa del genere non la puoi organizzare senza sponsor, no, perché ci sono dei costi, c'è un'amministrazione comunale che ha un bilancio, quindi non c'è nulla di male. Nel momento in cui vuoi andare dritto su questo aspetto, vai dritto e vai. Ma sì, così non è stato, se la buttiamo sui quattrini, allora non ne parliamo neanche.